Brasil, la nostalgia do Brasil, Brasil está ali, l'Italia qui. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ci siamo ragazzi. Solito Hummels, già due gol in questo campionato del mondo. Pallone sul secondo palo, la Germania subito in vantaggio. Il pallone passa, Toni Kroos si prepara al tiro, c'è una grande conclusione, Müller ancora in area di rigore, la lascia lì, Kroos! Cerca il pallone dentro, 6-0. Dentro Ovedes, la mette giù, poi cerca il tiro, 7-0 di Schürrle. Bernard la parte opposta, questa volta nella terra di nessuno, anzi Oscar nella terra di nessuno, Neuer, Oscar! 7-1. Ragazzi, quasi quasi ci voleva tutto il programma per farvi sentire tutti i gol insieme all'esultanza in sottofondo della piazza di Berlino e a questa canzone che sta diventando l'inno un po' degli argentini che questa sera cercheranno la finale contro una Germania irresistibile. Sinceramente non vedo come sia possibile in questo momento battere la Germania dopo quello che ha fatto ieri sera. Quanto al Brasile semplicemente è crollato di nervi, perché un risultato come questo in una semifinale dei mondiali non sta né in cielo né in terra. È chiaro che la Germania era più forte, era favorita, l'abbiamo ripetuto ieri. Il Brasile è una squadra con modesta, con due fuoriclasse che ieri sera non c'erano, Neymar rotto e Thiago Silva in tribuna a piangere insieme a tutti gli altri che erano in quello stadio. È altrettanto chiaro che ieri la Germania ha scritto una crudelissima pagina di sport, perché sappiamo cosa rappresenti il calcio per i brasiliani, la loro nazionale per i brasiliani, ma questa è una squadra senza poeti e senza artisti del gioco. E ieri sera è miseramente crollata di nervi, di testa. La pressione su questa squadra era ai limiti dell'insopportabile. Quindi ieri sera semplicemente è successo quanto era non nei pronostici, non nei piani, ma nella logica delle cose. È chiaro che la Germania è una squadra che non fa sconti a nessuno, è cresciuta nel corso di questo torneo, è una squadra che è cresciuta nel corso degli anni e degli eventi. Questa è una generazione di grandi giocatori ed è una generazione matura per vincere un mondiale. Ieri sera non hanno avuto pietà, come secondo me, chiedo anche a voi, non si deve avere nello sport. Insegnano gli americani per rispetto degli avversari, tu non smetti di giocare, tu vai avanti e vai avanti fino in fondo, e ieri sera il fondo è stato questo 7-1. Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Claudia Schiattoni in redazione. Io voglio sapere cosa ne pensate voi, voglio sentire la vostra voce su questa partita, su questa pagina storica che ha fatto impallidire il fantasma l'antico fantasma celeste dell'Uruguay. Adesso di fantasmi ce ne sono due che volteggiano nel cielo di Rio: uno è quello ormai antico, appunto, vestito di azzurro, e l'altro è in quell'improbabile maglia rossa e nera a strisce orizzontali che ieri sera la Germania per l'occasione indossava. 800 24 00 24, strade, e poi ne parliamo. Bernard dalla parte opposta, questa volta nella terra di nessuno, anzi Oscar nella terra di nessuno, Neuer, Oscar 7-1. Tutti convocati. Desculpa a todos os brasileiros. Só queria ver meu povo sorrindo. Todos sabem quanto era mais importante para mim. Veio. Lacrime, un fiume di lacrime. Questo mondiale brasiliano è stato pianto dall'inizio alla fine, prima di tensione, poi qualche volta di liberazione, alla fine di dolore incontenibile nei confronti dell'inevitabile. Tra l'altro poi voglio parlarvi anche di un'altra cosa che sta succedendo in Italia, perché volano gli stracci a questo punto dopo le parole di ieri di Agnelli, che io condivido, e ve lo dico subito, adesso è uscito allo scoperto Macalli in maniera pirotecnica: quando vado a lavorare, produco e pago le tasse, lui e la sua famiglia fino ad oggi hanno spolpato l'Italia, senza quel cognome lavorerebbe al tornio, eccetera eccetera eccetera, ne ha dette altre, poi ve le racconto. Però torno sul Brasile e saluto Luisa e ringrazio naturalmente Luis Augusto Monaco della Foglia del San Paolo. Buongiorno, ciao Luis. Buongiorno, è lo Stadio di San Paolo, è il giornale. Stadio di San Paolo, cioè. Ho sbagliato io, chiedo perdono. Il senso però è di un Brasile che ieri, è chiaro, è crollato mentalmente, è crollato di nervi, perché un risultato come questo non esiste, una differenza come questa non esiste in una semifinale mondiale. Il Brasile è stato schiacciato dalla pressione e probabilmente dal fatto di non essere onestamente una grande squadra. Sì, veramente. Si sapeva che non era una grande squadra, che non stava giocando bene, stava vincendo con fortuna, con difficoltà, e ieri abbiamo trovato una squadra molto ben organizzata, con tanti campioni, e che è stata superiore dal pizzo iniziale fino all'ultimo. Non c'è niente da dire. Volevo chiederti questo, magari proviamo a richiamarti che la linea non è perfetta, ma volevo chiederti questo: quante colpe ha Scolari in tutto questo? Aspetta che proviamo a richiamare Luis Augusto Monaco, perché il collegamento con il Brasile comprensibilmente non era perfetto, lo sappiamo perfettamente benissimo tutti i giorni, visto che per collegarci con Pardo dobbiamo fare il satellitare via Luna. Adesso ci riproviamo. Intanto finisco di leggervi queste, visto che sarà uno dei temi che tratteremo dopo le 14.30, volevo finire di leggervi queste parole di Macalli, presidente della Lega Pro, che ha commentato le dichiarazioni di ieri di Andrea Agnelli, che ha criticato le vicende che ruotano intorno alla presidenza federale, ha contestato e criticato le dimissioni in questo modo di Abete, perché il percorso doveva essere qualcosa di diverso. Ok, abbiamo fallito, bisogna cambiare le cose, allora Abete rimane lì, cambia le norme, perché di questo si tratta, e poi si vede quale può essere il prossimo presidente federale. Invece mi sembra ci sia una chiara battaglia in atto tra una certa corrente che poi è la stessa che ha di diabete, la stessa che conosciamo da molti anni e che è quella che porterà con ogni probabilità Tavecchio alla presidenza federale, e un'altra corrente che è quella che ieri Agnelli ha sostenuto con forza ed è quella stessa di Barbara Berlusconi, sui quali Macaglia ha detto: sento nomi sparati a vanvera così tanto per fare, se gli dai un bicchiere forse quei signori, riferito a quei signori che ho appena citato, fanno una O se ce la mettono tutta. Luis, ci sei? Eccoci. Luis, facciamo davvero una fatica dannata a parlare con Luis Augusto Monaco dello stadio di San Paolo. Ci sei, Luis? Ok, no, volevo chiederti ancora questo: quante responsabilità ha secondo te Scolari in questo mondiale brasiliano? Ah, grande responsabilità, soprattutto ieri, perché Cristina ha deciso di mettere Bernard in una partita così importante con pochissima esperienza, sì, è stata una scelta molto criticata, molto opinabile, molto ormai molto discussa, ma a posteriori, quella di mettere Bernard che era il giocatore di casa. Tra l'altro Scolari è andato fino in fondo con le sue scelte, le sue decisioni, e alla fine ovviamente pagherà con una crocifissione sportiva, come è normale, quasi normale che sia. Io torno a ripetere, secondo me il Brasile, ripeto, squadra debole, squadra modesta, che però ieri è stata ammazzata dall'attesa di un paese. Adriano, provincia di Como, buongiorno. Buongiorno, bene, grazie. Complimenti per la vostra trasmissione, io vi sento spesso. Ascolti, io volevo fare due brevissime considerazioni, una sul Brasile e una sulla Germania. Io ho 52 anni, per cui qualche partita dei mondiali l'ho vista, sì. E posso dire che un Brasile così, diciamo, scarso, e giustamente come dice lei, senza poeti, è una vita che non si vede. Poi un'altra considerazione, il loro allenatore, che comunque è un grande allenatore, per me ha sbagliato in pieno la formazione e anche l'approccio della partita, e però non dimentichiamo che abbiamo di fronte una Germania veramente allenata molto bene, che sta bene in gamba, guardi, e soprattutto messa in campo molto bene. A lei Adriano, guardi, sul primo punto, cioè un Brasile modesto, abbiamo visto altre edizioni del Brasile non irresistibili, mi viene in mente Italia 90 quando il Brasile finì fuori molto presto. Mi viene in mente lo stesso Brasile del 94, quello che ci batté ai rigori. Non era una grande squadra quella, d'accordo, aveva Bebeto e Romario davanti, aveva comunque interpreti un po' migliori a centrocampo, però non dimentichiamo come quella fu un po' una squadra spartiacque. Il primo Brasile tra molte virgolette operaio, il cui simbolo, ricordiamo, era Dunga. È chiaro, c'era Leonardo sulla fascia sinistra, c'era probabilmente un altro tipo di qualità, però anche quello non era un Brasile stellare. Questo non lo era di sicuro, ma non è una sorpresa. Ieri abbiamo parlato molto anche del carisma di David Luiz, della sua capacità di essere condottiero. Ieri David Luiz, al di là delle lacrime, ha fatto una partita da dimenticare in tutte le maniere. È tornato Luiz, vediamo se riusciamo a parlarci. Luiz, eccoci. Eccoci, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. No, stavamo parlando, mi stavi raccontando delle responsabilità, delle responsabilità di Scolari, la scelta di Bernard, d'accordo, e poi? No, e poi che era una squadra troppo vulnerabile, e durante il mondiale era molto chiaro che era una squadra troppo dipendente di Neymar, che non aveva un gioco collettivo, e gli attaccanti, Freddy, Hulti, in nessun momento hanno dato la risposta che lui aspettava, si è visto che ha convocato male, perché è un problema che, come ha vinto quella Coppa delle Confederazioni l'anno scorso, ha pensato che quella era la squadra ideale, però un anno dopo c'erano alcuni giocatori che non erano a un buon livello. Sì. Un po' come è passato con l'IP nel 2010, che ha scommesso su alcuni campioni del 2006 che non erano già in buone condizioni. Sì. E ha scelto, ha lasciato fuori alcuni giocatori che potevano una partita importante come quella di ieri, potevano dare un contributo. Per esempio Kaká era un giocatore, poteva, con la sua esperienza, un giocatore importante. Ma con Bernard, con Hulti, non si può giocare una serie finale di mondiali con un attacco Bernard, Freddy o Hulti, e questo per un paese, per una nazione con la storia, la tradizione del Brasile, è poco. Certo, questo è vero. Poi mancavano i due giocatori più importanti, ho detto prima, che sono Thiago Silva e Neymar, probabilmente sì, Neymar, gli unici due fuoriclasse veri che ha questo Brasile. E poi, esatto. E poi io ho avuto la sensazione netta che davvero ci sia stato un crollo nervoso nel Brasile, perché in una semifinale mondiale puoi andare sotto di un gol, anche di due, ma non crolli in 10 minuti in quella maniera. Ho detto prima che questi ragazzi, che questa squadra modesta, ha sentito addosso il peso di tutto il Brasile. Esatto. Quando abbiamo vinto la Coppa del Mondo l'anno scorso, pensavano giocare in casa non ha la pressione, è un vantaggio, che i tifosi hanno dato una mano alla squadra l'anno scorso quando cantavano l'inno, ma quest'anno hanno sentito troppo la pressione, quindi è la prima partita già, dall'alto gol di Marcelo nell'esordio fatto alla Croazia fino a ieri, e soprattutto dopo quella i rigori contro i Cili con giocatori che piangevano, si è parlato molto di questo aspetto psicologico, che la squadra stava sentendo troppo la pressione e sentivano obbligati a vincere il mondiale, il secondo mondiale in Brasile, non potevano lasciare, non potevano perdere questa occasione, e sicuramente l'aspetto psicologico è stato molto decisivo anche per questo risultato vergognoso di ieri. Grazie Luis, io ti ringrazio molto, ti abbraccio, su col morale. Ok, grazie. Ciao. Grazie. Luis Augusto Monaco del Stadio de San Paolo, chiaramente traspare tutta la delusione del Brasile, dei brasiliani, no? Adesso non vorrei essere in quelli che dovranno giocare la finalina per il terzo posto. 800 24 00 24, il numero verde. Questa sera credo sarà una partita un pochino diversa, quella tra Argentina e Olanda. Paradossalmente potremmo andare verso, non c'è mai stata una vincitrice europea in un mondiale sudamericano, potremmo addirittura andare verso una finale tutta europea, ed è quello che, vorrei anche tornare sull'argomento di ieri, molti italiani si augurano, perché mi pare di percepire una netta predominanza di, così, tifosi mi sembra eccessivo, di supporters orange per la partita di stasera. Mi sbaglio? 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto. Il pallone passa, Toni Kroos si prepara al tiro, c'è una grande conclusione, Müller ancora in area di rigore, la lascia lì, Kroos! 2-0 per la Germania, porta chiusa in faccia al Brasile, record storico di gol nel campionato del mondo per Miro Klose, nessuno mai nella storia come lui. Applausi per lui, pubblicità per noi. Tutti convocati. Olha, sinceramente è complicato explicar. Eu acho que explicar o inexplicável é muito complicado. Preferia que terminasse 1-0 com erro meu do que 7-1. Questo Julio Cesar, anche lui con le lacrime agli occhi, come David Luiz, anche lui ampiamente oltre l'orlo di una crisi di nervi. C'è qualcuno che, insomma, pone dubbi, qualche ascoltatore anche via SMS 349-238-6666, che pone dubbi sulla forza della Germania. L'Algeria è troppo forte a questo punto, se non fosse così la Germania sarebbe andata alle semifinali. Irresistibile Germania, quella che ha vinto i supplementari con l'Algeria, ha faticato con la Francia. Non esageriamo con le valutazioni. Beh, insomma, quella che abbiamo visto ieri sera era onestamente una squadra irresistibile, ma che è cresciuta, perché non dimentichiamo come la stessa Olanda con Costa Rica, come tutte le grandi che sono arrivate fin qui, hanno avuto difficili passaggi attraverso rigori supplementari, gol all'ultimo istante, eccetera eccetera, tutte quante. Quindi la Germania certamente ha avuto il merito di crescere. Non dimentichiamo che quasi in ogni mondiale non c'è una squadra che domina dall'inizio alla fine, dalla prima all'ultima partita. Questo è impensabile. Però ci sono squadre che con il passare delle partite e dei turni riescono a crescere, e adesso questa Germania a me sembra onestamente irresistibile. 800 24 00 24, Goffredo da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma niente, volevo dare la mia opinione sulla partita di ieri sera. Sì. Io sento tante opinioni sul fatto che il Brasile non sia stato all'altezza, la pressione psicologica, la mancanza anche magari di alcuni giocatori chiave. Io invece ho avuto nettamente l'impressione che sia stata una netta superiorità del calcio tedesco. Vuoi che sia stato portato da Guardiola o questo tipicaca, o io penso anche il calcio europeo in questo momento ha dato una lezione di calcio al calcio brasiliano. Sì. Questo è stato nettamente la mia opinione. Sì, però Goffredo, un 1-7 non esiste a un mondiale, non esiste più, cioè è un risultato anacronistico, è un risultato folle, è un risultato surreale, un 1-7, quindi certamente la Germania ha dato una lezione al Brasile. La Germania è una squadra nettamente più forte rispetto al Brasile, lo sarebbe stata anche con Neymar e Thiago Silva in campo. Non dimentichiamo che questa Germania è un prodotto costruito con il tempo, con un sistema calcio, e anche questo discorso è molto, molto importante, molto interessante, molto profondo, un sistema calcio che funziona, che produce giocatori. Questa è una generazione di grandi giocatori. Credo che Guardiola c'entri pochissimo con questa partita, con questa prestazione della Germania, anzi non c'entri nulla Guardiola in tutto questo, perché la Germania e questi giocatori da molto tempo giocano insieme e giocano in questa maniera, e dunque così è. Mentre, ripetiamo, Brasile, Colombia, la stessa Argentina, sono paesi che esportano giocatori, sono i paesi del calcio balneare, del calcio da strada o da spiaggia e da esportazione di giocatori. Germania, la Francia stessa, l'Olanda certamente, sono paesi che producono giocatori, non necessariamente giocatori per il fronte interno, ma giocatori che comunque vanno all'estero molto spesso e crescono all'estero, com'è penso ormai normale di questi tempi nello sport. Lorenzo Udine, buongiorno. Lorenzo Udine, buongiorno. Dopo, Pino da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Senta, io volevo chiederle una cosa, cioè, sì, la differenza tra voi giornalisti addetti ai lavori e gente che la trovi al bar, la trovi per strada, così che parla. Cioè, ieri lei ha detto che sperava in una finale Argentina-Brasile. Sì. Come faceva lei a pensare che il Brasile andava in finale? No, io ho detto che la Germania, ho dato la Germania per favorita fin dall'inizio. Ho detto ieri che era nettamente favorita in questa partita. Poi il calcio è strano, poteva anche succedere qualcosa di diverso. Cioè, lei aveva la certezza che la Germania avrebbe battuto 7-1? Io avevo la certezza, no, 7-1 no. Che comunque vinceva col Brasile, sì. Che perché vincevo... il Brasile l'ha ripetuto lei poco fa. Il Brasile ha fatto fatica in tante partite. Sì, ma indubbiamente. Io semplicemente arrivava prima o poi il punto dove il Brasile si fermava. Sì, però doveva Pino, arrivare. Però Pino, se avessimo in tasca queste certezze nel calcio, potevamo andare a scommettere 1 milione di euro facendoceli prestare. Avessimo avuto questo tipo di certezze, saremmo diventati tutti ricchi. Calcio è meraviglioso perché di certezze ne offre poche. Una certezza stava nel fatto che la Germania era nettamente favorita con il Brasile ieri, però sinceramente non è che possiamo dire partita scontata, non la guardiamo neanche, perché tanto la Germania ammazzerà il Brasile. Certamente è andata così, certamente i pronostici sono stati rispettati, come è accaduto curiosamente nel corso di questo intero mondiale. Cioè, la squadra favorita ha sempre in un modo o nell'altro passato il turno e stasera vediamo. Non so chi sia favorita, sinceramente, tra l'Olanda e l'Argentina. Probabilmente l'Argentina va di una stretta incollatura, però non esiste una favorita chiara, mentre esisteva una favorita chiara, certamente la partita di ieri. Lorenzo? Sì, eccomi qui. Adesso ce la facciamo. Dica. Bene. Allora, io volevo esprimere la mia impressione circa il comportamento della Germania dopo il primo tempo, dopo il 5-0. Mm. Secondo me ha continuato l'allenamento senza infierire, nel senso che io mi sono immedesimato, ho cercato di immedesimarmi in loro e obiettivamente, non essendoci nel calcio la sconfitta per manifesta inferiorità, dovevano continuare e hanno continuato con dignità. Giocando, allenandosi di fatto, e quindi una certo, Germania umana. Io non sono filo tedesco. Una Germania umana. Ho letto sulla stampa, ho sentito anche un intervento introduttivo vostro, sì, che diceva invece che la Germania è stata terribile. Secondo me, se avessero voluto essere terribili, ne avrebbero fatti almeno una dozzina. Volevo sentire la vostra opinione. Ma insomma, la Germania ha segnato altri gol alla fine, è arrivata fino a quota 7, certamente non si è messa a rischiare le caviglie, non si è messa a rischiare infortuni, certamente ha rallentato il ritmo, ma è andata avanti a giocare come credo fosse giusto, come fosse sportivamente corretto. È chiaro che non aveva un avversario, avesse voluto segnarne 10 probabilmente sarebbe anche riuscita a segnarne 10 ieri, però a un certo punto è normale che pensi a quello che verrà dopo, cioè all'ultimo atto, e dunque giochi al meglio in una partita che è diventata a quel punto un'amichevole, perché questo è il senso, non giochi alla morte per darne 14 ai brasiliani, 7 mi sembrano già abbastanza. Sì, adesso parliamo di un'altra cosa, eh? No, Antonio Barilla, buongiorno. Buongiorno a voi. Come stai? Bene, grazie. Io con te volevo parlare non tanto di questa cosa, di questa follia brasiliana, quanto di un altro tipo di follia, quella innescata dalle parole di Agnelli, che io condivido, parole su quali potrebbe essere un futuro ideale per la Federcalcio, che non comprende i candidati attuali. Poi adesso leggo delle repliche di Macalli, che ovviamente è della corrente di Tavecchio, e che sono parole durissime, tipo: quando io vado a lavorare, produco e pago le tasse, lui, cioè Agnelli, e la sua famiglia fino ad oggi hanno spolpato l'Italia. Oppure: chi ha un programma si presenti, lo dica apertis verbis e venga a prendere i voti, gli scienziati atomici che sento parlare non ci fanno paura. A proposito di questa connection nei fatti che esiste tra Andrea Agnelli e Barbara Berlusconi, Macalli dice: sento nomi sparati a vanvera così tanto per fare, se gli dai un bicchiere forse quei signori fanno una O se ce la mettono tutta. È una battaglia totale ormai in atto. Sì, una battaglia totale i cui toni oggi chiaramente si sono inaspriti, perché Macalli è stato obiettivamente molto molto duro. È stato un attacco frontale. Ieri diciamo che avevamo assistito a un attacco duro, ma su una candidatura smontata, non sicuramente sul piano personale. La sensazione che si era avuta ieri è che l'interesse di Agnelli nell'elezione del nuovo presidente federale si quasi attorno a una figura che avesse un'autorevolezza calcistica da lui individuata in un ex calciatore con delle potenzialità manageriali, tra l'altro alludendo a due esempi di sua frequentazione, Rummenigge e Platini nell'UEFA, e tracciando proprio l'esempio di come quando questi personaggi, per via del loro passato, quindi di una competenza specifica completa, hanno un'autorevolezza che è difficile trovare comunque in altre figure, tanto vero, ha citato anche lo stesso impatto che ne deve dare all'interno della Juventus. Non c'è una sua, diciamo, candidatura precisa, ci sono dei profili, lui stesso ha ammesso che Albertini può accedere a questo tipo di profilo, ha fatto degli altri esempi, però è stato molto chiaro nello spiegare chi invece non vuole. Secondo Agnelli e secondo quello che è un fronte che si sta creando, Tavecchio non esprime a loro giudizio, quel soggetto che possa interpretare delle riforme radicali di cui ha bisogno il nostro calcio. Se tu mi permetti, è questo il nodo. Noi ci stiamo tutti preoccupando di chi diventa. Dobbiamo anticipare un attimo e capire cosa bisogna fare per rilevarci. Ma è chiaro. E ne parliamo tra un attimo, Antonio. Dammi un istante per informazioni sul traffico e poi torniamo a parlarne, perché il punto non è tanto questo o quel nome. È chiaro che si tratta di correnti, Tavecchio, Macalli, che poi Abete, la corrente è quella lì. Sono stati fatti altri nomi e ipotizzati altri profili, da Albertini ai nomi che hai detto tu, Nedved, Vialli, Costa Curta che ha declinato, Cannavaro, eccetera eccetera eccetera, ma non è una questione di nomi, è una questione di sistema, ed è quello che bisognava o bisognerebbe a monte cambiare. Tutti convocati. Del presidente Abeti e del mister Prandelli è un gesto, però è un gesto che gli smarca nel momento del bisogno, e quindi Prandelli si è già felicemente sposato con i turchi, dove tra l'altro la pressione fiscale è molto inferiore, no? Se vogliamo rimanere in termini di paragoni, e questo è da ricordare, è vero e giusto, però nel momento del bisogno, perché il calcio abbia bisogno di determinate riforme, trovo che farsi da parte non sia il gesto di cui aveva bisogno il calcio. Ho sentito il presidente al telefono e mi ha detto più volte che lui ha voluto fare una battuta sulla fiscalità europea, non rivolta alla mia persona. Ci tenevo a dirlo perché ho sentito il presidente, a me interessava le parole del presidente. Il presidente al telefono mi ha detto delle cose molto, molto carine, e volevo ovviamente specificare che è stata solo una battuta. Fare fatica a immaginare lo stesso riconoscimento di autorevolezza al nostro presidente delegato ai dilettanti Tavecchio. Il calciatore ha un'autorevolezza diversa e una rappresentanza diversa. Non ringrazio nel caso specifico Abete per averci lasciato solo 20 giorni nel mese di luglio per fare delle riflessioni così importanti per il principale sport italiano, però così è la vita, le dovremo fare. E io auspico che ci sia quanto più consenso possibile in una persona di grande spinta riformista, perché quello di cui ha bisogno il calcio è di un cambio radicale e profondo. Quindi palleggio, Agnelli, abbiamo sentito Prandelli, questa storia della fiscalità, vabbè, se vogliamo crederci ci crediamo, ma mi sembra che il riferimento del presidente della Juventus fosse molto chiaro, poi non so cosa abbia detto al telefono a Prandelli, no, ma mi interessa relativamente. Se vuoi un mio contributo, ero presente, sì. Siccome queste frasi sono state dette all'interno di un convegno sull'economia, dell'incidenza dello sport, Agnelli aveva specificato come per crescere abbiamo anche bisogno di un'armonizzazione fiscale in Europa per competere con i grandi club europei. Vecchia battaglia di Galliani. Esatto, quello era forse un riferimento, un inciso che ha un po' spostato il tiro, perché era chiaro nella complessità del discorso che il vero obiettivo era Abete. Con Abete è stato durissimo Agnelli, mentre Prandelli è stato associato perché lo spunto delle dimissioni gli ha permesso poi di affrontare questo tema. Sinceramente su Abete è stato molto molto più duro, perché la trasformazione di un'assemblea già programmata di servizio e tecnica in assemblea elettiva chiaramente crea delle corse per un argomento così delicato, che non facilita il lavoro, ecco. Quindi da questo punto di vista addirittura ha detto che secondo lui Abete dovrebbe dimettersi anche dalle altre cariche conservate in altre sedi come il CONI e l'UEFA. Quindi è stato molto duro. È vero, verissimo, perché se dai le dimissioni non è che resti nel CONI e nell'UEFA, dai le dimissioni anche da quelle organizzazioni. L'assemblea di agosto era già programmata, hai fatto benissimo a sottolinearlo, e si è trasformata nella sua sostanza, diventando assemblea elettiva. E posso aggiungere che anche da questo punto di vista sono d'accordo con Agnelli, perché lui ha semplicemente detto: allora vogliamo cambiare? Tu resti al tuo posto, provvediamo a delle riforme di sistema e poi vedremo quali saranno i candidati. La sensazione invece, Antonio, è che queste dimissioni di Abete non abbiano fatto altro che tirare la volata a Tavecchio, no? Beh sì, perché nel momento in cui lui si è dimesso e si è avanzata la candidatura del presidente della Lega ND, che ha quindi quella base, ha una parte ampia della C e poteva accumulare un interesse anche A, era una classica candidatura attorno al quale tutti trovavano un'intesa, tranne magari, come sempre può capitare, qualcuno che non fosse in linea. Invece in questo modo si è aperto un fronte parallelo che esprimerà a sua volta un altro candidato, e a quel punto bisognerà vedere cosa succede, perché i numeri credo che siano attualmente dalla parte di Tavecchio. È ovvio che questo fronte aperto, anche per qualità di chi ne fa parte, proporrà un confronto forte con un altro candidato che interpreti questo secondo tipo di rinnovamento. Barbara Berlusconi si era espressa per un ricambio generazionale. Agnelli ha tracciato un identikit ancora più nitido, la stessa Berlusconi Junior è intervenuta ieri, quindi questo fronte, un fronte che è stato ribattezzato Notav utilizzando le prime parti del cognome del presidente, sta creando un confronto, un dibattito molto aperto. Io mi auguro che questo dibattito diventi, al di là di chi poi venga eletto, base per due considerazioni: la necessità di riforme che prescindono dal soggetto e la consapevolezza che neanche un mago da solo può cambiare, quindi dobbiamo cambiare complessivamente un modo di approcciarsi, una struttura, e cercare di fare il percorso che ha fatto la Germania, prendere il terreno che obiettivamente abbiamo perso in Europa. L'ultima cosa, Antonio, è Prandelli, le sue parole, no, non quelle che abbiamo sentito, ma quelle relative alla nazionale, perché ha sparato abbastanza a zero, e Balotelli non è un campione, solo uno che vive in un altro mondo, su un altro pianeta, da Rossi, da Giuseppe Rossi, la delusione più profonda dal punto di vista umano, e rifarei tutto quello che ho fatto. Spero che non lo pensi davvero. La tua considerazione su questi argomenti? Ma guarda, mia difesa d'ufficio? Sì, diciamo che lui, nel cercare di difendere le scelte fatte e però esternare un sentimento, ha provato a dare una sua verità di un qualcosa che però resta negativo. Ha provato, diciamo, a dare una spiegazione di alcune scelte, non è tale come si è verificato, ha provato il perché di certe reazioni. Resta fermo che la spedizione azzurra è stata un fallimento, e sicuramente la sua fetta di responsabilità è ampia. Certo. Abbiamo ammirato le dimissioni, ho ammirato un po' meno alcune frasi ieri che forse si possono anche dare in maniera diversa, in tempi diversi. Questa è la mia semplice e umile opinione. Io spero solo che, visto che questa volta non dobbiamo solo rifondare una nazionale, si colga l'occasione per rifondare un movimento. Grazie Antonio, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Antonio Barillà, da Corriere dello Sport. Ivan da Milano, buongiorno, dica. Sì, buongiorno Carlo. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, è sempre molto bella, è sempre un piacere sentirla. Grazie. Poi niente, su ieri volevo dire, io ho visto la partita e comunque sono d'accordo molto su quello che hai detto tu, nel senso che anche secondo me il Brasile è una squadra comunque abbastanza piatta, togliendo soprattutto Neymar. Fuori Neymar, secondo me, Thiago Silva, Ivan. E Thiago Silva dietro. Perché ieri abbiamo fatto un sacco di chiacchiere su David Luiz, a carisma. Come, però a centrocampo parliamone. No, parliamone dove vuoi, ma con Thiago Silva accanto. Perché sì, sicuramente. Con Thiago Silva accanto, con Thiago Silva accanto, allora anche David Luiz può fare il guerriero, può fare il condottiero, può fare quello che gli pare, può anche sbagliare, tanto c'è quell'altro. Vero. O no? Vero, però sono venuti secondo me a galla molto anche i limiti del centrocampo, che hanno messo la difesa molto in difficoltà, perché questi arrivavano dappertutto, ma dappertutto veramente. Poi un'altra scusa, un'ultima cosa, io l'ho vista sulla Rai la partita, professionisti per l'amor di Dio, però io non concepisco, io ho giocato a pallone anch'io per tanti anni, il fatto dell'arrivare e dire stanno vincendo 5-0, 6-0, la Germania secondo me ha fatto la sua partita onesta, è arrivata alla fine, ha cercato di fare gol fino alla fine. Tant'è vero che anche a un certo punto anche Müller ha avuto uno scontro in mezzo al campo con David Luiz, perché comunque lui ce la voleva mettere. Sì. E secondo me hanno fatto benissimo, perché nel calcio non esiste smetto di giocare, ma zero proprio. No, se io gioco a calcio d'accordo e trovo una squadra contro di me che smette di giocare, cioè io mi incazzo. Ma fai bene, ma fai bene, perché è una questione di rispetto. Tu rispettami giocando fino in fondo e io cerco di sopravvivere. Ma questo è un concetto dello sport molto americano che io condivido e sposo, cioè per rispetto degli avversari tu giochi fino in fondo, tu giochi nella migliore situazione e condizione possibile. Poi è altrettanto evidente che non giochi per stai attento a non farti male, stai attento a giocare con una certa intelligenza, ma vai fino alla fine e cerchi di fargli il più possibile, perché questo è lo sport, a mio parere. Tutti convocati. Ho voluto entrare sull'argomento Rossi, però ancora forte la delusione che ho provato. Perché se un giocatore sa, conosce il proprio ruolo prima di iniziare, e se vi ricordate io la prima intervista dissi a Coverciano: qualsiasi cosa succederà, Giuseppe Rossi ha già vinto questo mondiale. Non è un campione in questo momento, lui è un giocatore che ha i colpi nella partita. I campioni sono quelli che ti danno la garanzia di saper sopportare tutte le situazioni. Allora se farà tesoro di questo, l'Italia avrà bisogno ancora di lui. Non voglio fare il nome, sono stato accostato a delle persone che, ma soprattutto ho pensato ai familiari di quelle vittime. Cioè il calcio non può entrare a gamba tesa nei confronti di questi familiari che stanno ancora soffrendo. Ti aspetti di tutto perché probabilmente l'Italia in questo momento vive delle tensioni che vanno al di là dell'aspetto sportivo, e forse l'aspetto sportivo ha dato modo a tanti di dire tante cose. Purtroppo molte persone sono sporche, sono dentro problematiche e vedono il mondo sempre come la loro immagine e somiglianza. Quando ricevi un po' di minacce, quando non è bello, anche perché pensi ai tuoi familiari, pensi alle persone che ti stanno vicino, e quindi non è bello. Parole di Prandelli su Giuseppe Rossi, su Balotelli, su questo accostamento, a dire la verità qui non ha torto per niente a Schettino, assolutamente poco elegante, e sto cercando di toccarla piano, minaccia eccetera eccetera. Su quanto all'argomento Giuseppe Rossi, tra l'altro c'è una replica di Andrea Pastorello, la rappresentante di Giuseppe Rossi, che dice: prendo atto delle sue parole ma scelgo di non commentare. Detto questo, c'è un limite a tutto. Se questa situazione dovesse continuare, allora più avanti potremmo anche noi dire la nostra, magari anche prima di più avanti. Mi piacerebbe sentire una replica civile, ma non vedo perché aspettare, tergiversare. Ciao Pierluigi Pardo, come stai? Bene, bene, sono qui nella triste Belo Horizonte, inondato dalle lacrime, così salvagente per non affogare, ah. Mamma mia. Una roba assurda. La tua valutazione su questa non partita qual è? Ma allora, ti dico che ne avevo parlato ieri, secondo me la semifinale equilibrata è quella di stasera, sì. Quella dove veramente faccio fatica a trovare un pronostico, sì. Quella di ieri l'avevo detto, insomma, secondo me la Germania era favorita, non pensavo una roba del genere, sinceramente, mi aspettavo una vittoria anche netta, ma non in queste proporzioni. Razionalmente parlando non esisteva, non c'era proprio discussione, però quello che colpisce è l'atteggiamento che ha avuto il Brasile. Io ho fatto ieri un sacco di tweet, mi sono scatenato al 20° del primo tempo, ho fatto un tweet, qualcuno vuole anche pensare a portarsi sfiga, ma ha detto: ma che fa il Brasile, che sta facendo il Brasile, che al 20° del primo tempo sotto 1-0 una squadra normale gioca a pallone sapendo che ci sono 70 minuti, provando ad assestarsi, provando a trovare un suo equilibrio. Il Brasile non l'ha fatto. Il Brasile al 20° del primo tempo giocava come se fosse l'89esimo, con Davi Luiz che si spingeva avanti. Il Brasile, dopo aver preso il primo gol, era già impaurito prima di andare in campo. Dopo aver preso il primo gol era paralizzato, cioè hanno avuto il classico crollo nervoso, perché non esiste. Tu puoi essere più debole, puoi avere problemi, puoi avere una formazione sbagliata, però nel calcio professionistico a questo livello, semifinale mondiale, dai, non esiste. Sì, no, ma assolutamente. Infatti si è vista, secondo me, la differenza fra Europa e Sud America, fra professionalità, tra professionismo e così un po' di atteggiamento dilettantistico, però insomma questo è quello che ho visto io ieri, insomma. Thiago Silva si è capito che era fondamentale di mezzo, perché David Luiz può giocare bene con lui, perché evidentemente gli protegge le spalle, può occuparsi quindi più facilmente dell'impostazione, ma senza di lui ha fatto dei disastri. Davanti, vabbè, Fred, io manderei delle guardie del corpo per Fred, perché veramente i brasiliani lo detestano. A un certo punto era diventato il bersaglio, cioè dei cori su Fred, insomma, abbastanza volgari durante tutto il secondo tempo, sì. Per lui e per Gilmar Rousseff, insomma, poi alla fine si va avanti, insomma, non credo che ci saranno i suicidi come nel 1950, mi auguro di no, insomma, mi sembra il paese, alla fine è un paese che riesce a farsene una ragione, sì, la vita va avanti, continua, semmai sarà importante che... sarà importante capire dal punto di vista sociale. Ieri sera ci sono stati dei tasserugli nel post partita a San Paolo, a Rio, anche a Belo Horizonte, con 12 arrestati e 17 feriti. Capire se questa cosa è la semplice, diciamo, purtroppo coda di un evento sportivo, quindi grandi masse che si radunano, la delusione, sappiamo che ogni tanto queste cose succedono purtroppo spesso anche da noi, oppure se invece questo potrebbe essere un vagito di una ripresa di quelle contestazioni più strutturate contro la Coppa che c'erano state l'anno scorso. Per il momento mi sembra la prima. Sì. Senti, ma tu dici che questa, ti ricordi all'inizio del mondiale, prima dell'inizio del mondiale c'erano queste preoccupazioni, c'è stata questa sorta di tregua non scritta, cioè tu pensi che, o potrebbe accadere che l'uscita di scena del Brasile possa riaccendere questa miccia, ok, fuori, adesso cominciamo a farci sentire, cominciamo a fare altre cose. Sì, io, guarda, tra l'altro mi sono appena arrivati dei dati sull'80% dei brasiliani che è seriamente preoccupato per la sicurezza nazionale, all'interno di una ricerca fra 12 paesi il Brasile è al terzo posto per la preoccupazione sulla sicurezza e il 68% dei brasiliani è preoccupato per la propria sicurezza personale. Questo in generale non ha niente a che vedere con il movimento Coppa tra chi, no? La Coppa per chi, per cosa, che dall'anno scorso organizza manifestazioni. No, io credo che comunque io non mi aspettavo sinceramente che improvvisamente si sarebbero placati i tumulti di piazza, perché avevo seguito la Confederation dell'anno scorso, avevo anche raccontato appunto che la sensazione era quella di un paese e di un movimento di contestazione che non si fermava, che andava avanti, che avrebbe rotto le scatole in senso buono, dico con affetto, ogni partita. Questo non è successo. E adesso, francamente, che risucceda alla luce di un risultato così negativo della Federação mi sembra difficile. Certo, ci saranno delle situazioni di rischio da monitorare, ad esempio vediamo che succede stasera. È chiaro che l'idea di un'invasione di 100.000 argentini, molti dei quali senza biglietto, domenica al Maracanã, insomma, ecco, diciamo, non è proprio il massimo della serata tranquilla, sì, ecco, certo, non è come andare a mangiare i funghi in campagna, ecco. È un po' diversa come situazione. Aspetta, adesso detto questo, dimmi. No, detto questo, insomma, per ora non credo che ci siano segnali di particolare rischio, insomma, queste sono le situazioni che verranno monitorate nei prossimi giorni. Adesso voglio parlare con Mimmo da Roma e Ginevra da Milano. Mimmo, buongiorno. Buongiorno, convocato da Piazza Mincio, Sua Maestà Piazza Mincio da Roma. Benissimo. A pochi metri dalla bellissima chiesa degli argentini, Piazza Quadrata. Sì. Tipo Argentina. Sì. Ieri avevo tifato Germania. 5 minuti da casa mia? 5 minuti da casa di Pardo per la cronaca. Il quale Pardo ieri pomeriggio aveva mandato un tweet con la foto di German Camoranesi ed era un presagio, e gliel'ho anche scritto sul tweet. Ieri, insomma. Quindi? Quindi tifo Argentina, perché per quei falchi bavaresi e compagni ci vuole, bisogna riequilibrare il tutto con qualche perla. Gli olandesi non ce la faranno, non sono tipi da perla, e ci vuole a questo punto Sua Maestà Messi. Sì. Per cui dico finalissima Germania-Argentina e poi si vedrà. E poi i due papi vedranno cosa fare. I due papi, bravo, i due papi vedranno che cosa fare. Anch'io tifo Argentina, non so di perdere o non perdere, però mi sembra che anche l'Olanda qualcuna ce l'abbia. Non credo che sarà una partita non equilibrata, credo sarà invece una partita di un equilibrio pazzesco, e magari dura anche tanto la partita di stasera, più dei 90, ma poi vediamo. Poi domenica è un altro film, abbiamo modo di riparlarne. Sentiamo Ginevra. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Sono un po' lenta perché sono un mese di gravidanza, quindi parlerò con un po' di affanno. Volevo dire che per me la Germania è stata, ha dimostrato anche ieri di essere una squadra bella ed elegante nel gioco e non solo nel carattere. Nel senso, tutte e due le cose, perché sono d'accordo con quello che diceva Lorenzo, il signore che ha partecipato prima, nel senso che io ho letto un po' la Gazzetta con degli articoli anche molto belli di Condò, eccetera, ma ci sono un po' di enfasi giornalisti che secondo secondo me, su questa cosa della spietatezza, il cinismo, si parla dell'assassino Klose. Allora, io sinceramente li seguo da tanti anni, tedeschi, e devo dire che in genere li ho trovati anche molto più rocciosi e anche molto più fisici e aggressivi. Li ho trovati straordinari, cioè secondo me, cioè, sono un esempio per tutti. Hanno giocato una grande partita di calcio, non ha mica, non hanno. No, li ho trovati, ma anche con la Francia, devo dire che mi sono piaciuti moltissimo con la Francia, mi è piaciuto tantissimo Hummels, Cannavaro, straordinario. Ho visto una squadra che effettivamente dimostrava di avere delle qualità anche proprio nel carattere, nella solidità da lavatrice tedesca e tutto il resto, straordinari, nel senso che ieri in effetti che cosa si può fare, nel senso hanno rallentato il gioco nel secondo tempo, probabilmente più per motivi tecnici che per altro, però non ho mai visto scorrettezze, li ho visti estremamente sempre molto corretti, molto eleganti, mai spietati. L'unico un po' carognetta secondo me è questo Muller. Sì, però è un giocatore meraviglioso, è un po' carognetta, ma come è giusto che ogni tanto essere, insomma, non è che nel calcio ci sta anche questo, ma è interessante questo argomento, perché molti, cioè anche molti ascoltatori, è un argomento di dibattito. E volevo sentire Pardo sul tema, come questo messaggio: nel calcio ci sono regole non scritte che dicono che sul 5-0 non si infierisce sull'avversario, la Germania ha infierito, tra l'altro non si esulta sul 7-0, glielo dico da dirigente di squadra di calcio, nel mondo del calcio ci si rincontra prima o poi, e allora ci si rincontra, e dunque che succede? Io non ti ho fatto male lì, tu non fanno male qui, a me non piace questa logica. Questa cosa, allora ieri sera ho partecipato a una cena con Cazzullo, con Doc Rosetti e oltre che il mio produttore Giampaolo Favero, e devo dire che l'atmosfera era di quelli che fra 40 anni potremmo dire ai nostri nipoti che c'eravamo, sperando ovviamente di esserci noi prima di tutto, perché mi sembra una cosa simpatica, però quindi questo clima qui, questa sconfitta qui è stata determinata proprio dal fatto che non si sono fermati. Lo sport è questo, ma noi siamo pieni con tutta la retorica del rugby. Il rugby, ci sono delle partite che finiscono 127-4 o a 5, questo è lo sport. Questo è lo sport. Io trovo che sarebbe molto più offensivo fermarsi. Certo, è molto più offensivo quando ti fermi, perché ti dà proprio l'idea che sono talmente più forte che faccio quello che mi pare, ti umilio e ti piglio anche un po' per il culo. Ma certo, è così. Posso dire una cosa con una battuta? Guardate, la Germania si è fermata, Come? La Germania si è fermata, cioè la Germania ha avuto delle altre palle gol clamorose, così ha avuto una palla gol dell'8-0 che non so come ha fatto a metterla fuori. Cioè, è chiaro, non si è fermata. Adesso questa qui era una provocazione, una battuta. Però poteva farne anche di più, poteva finire 10-1 come lo famoso Ungheria e il Salvador. La drammaticità è stata quella del Brasile. Il Brasile che al 20° giocava come se fosse l'ultimo minuto della partita, buttandosi tutti avanti, senza avere un minimo di equilibrio in mezzo. L'equilibrio nel calcio di oggi è fondamentale, si è vista la differenza tra una squadra di pallone e una squadra che non lo è. Sì, poi per un equilibrio che deve, insisto su questo tema, un equilibrio che deve essere anche mentale. I brasiliani non ce l'avevano, perché anche una squadra più debole, anche una squadra poco organizzata, e il Brasile non è poco organizzato, che sono sempre il Brasile, a quel punto difendi la sconfitta, limiti i danni e poi si vede, no? Cioè, come dice Trapattoni, stai nella cesta, aspetti che passi il temporale, limiti il più possibile i danni e poi vediamo. Il Brasile è lì che è crollato, ma mentalmente, secondo me, non è riuscito a limitare i danni. Poi i tedeschi si sono fermati, più che altro si sono fermati perché hanno cominciato a pensare alla finale, è ovvio, non vuoi farti male, vai avanti a giocare, e se ne puoi fare degli altri, ne fai degli altri, perché questa è la logica dello sport, come dici tu. Ma detto questo, il crollo è tutto brasiliano. La Germania è semplicemente stata strepitosa. Tra l'altro, diceva prima l'ascoltatrice, è una squadra elegante, sì, è una Germania con grande talento, secondo me, questa. È una Germania, guarda, io ho giocato sul foglio, ho fatto un pezzo mettendoci in mezzo Hegel, e francamente forse avevo un po' esagerato qui con la caipirinha, però in realtà secondo me il concetto è veramente tesi, antitesi e sintesi. Cioè, nella Germania storicamente è stata una squadra solo muscolare, praticamente solo fisica. Poi c'è stata questa generazione nuova di calciatori, di tedeschi di seconda generazione, che ha portato alla squadra tedesca un talento e un'imprevedibilità invece molto latina. Giocatori come Ozil, Osil secondo me è l'esempio più indicativo, ma insomma anche giocatori che sono arrivati ad esempio dalla Polonia come Podolski, la contaminazione caraibica, Cross, esatto, quindi però la squadra che abbiamo visto giocare molto bene, secondo me il più bel calcio che ha giocato la Germania negli ultimi anni è stato quello del 2010, prima di ieri pomeriggio ovviamente. Mi sembrava una squadra con grandissima energia, ma forse ancora non matura al punto giusto, e lo stesso anche nel 2012. Poi ha cominciato a vincere, c'è stato questo tappo di champagne che si è finalmente aperto nel 2013 con la vittoria in Champions League, con la finale tutta tedesca, e oggi mi sembra una squadra molto più matura, cioè i giocatori rispetto a qualche anno fa forse non sono altrettanto forti, forse sono un filo più stanchi, ma sono sicuramente più bravi nella gestione delle partite, quindi hanno trovato una sintesi, e poi su questo l'ho scritto prima di ieri, adesso onestamente dopo la partita di ieri vale 100 volte tanto, perché ieri è stato veramente qualcosa di clamoroso, insomma. Poi non è detto che questo porti alla vittoria finale, perché poi ogni partita ricomincia 0-0. Immagini con che fiducia carica, con quello che avranno dentro i tedeschi dopo questa vittoria, che sono uomini ormai anche loro, una vittoria di questo tipo lì con il Brasile ti aggiunge degli ingredienti che saranno difficili da contenere per Argentina o Olanda che sia. Julio Cuneo. Sì, pronto, grazie per lo spazio. Innanzitutto volevo dire che per noi argentini il calcio è una festa, e comunque vada oggi pomeriggio, oggi questa sera, per noi sarà una festa. Mi dispiace, fra virgolette, per tutti i brasiliani, però io ho sentito parlare tutta la mia vita del Maracanazo, adesso avrò da raccontare quello che è successo ieri. Purtroppo. Senta, ma lei conosce, conosce questo inno che adesso sta spopolando in Argentina, che è diventato un po' la colonna sonora di questo mondiale argentino? Che inno? Una canzone che in questo momento tutti i tifosi argentini cantano. Io non gliela so cantare, se lei la sapeva facevo cantare a lei. No, io abito qua in Italia da parecchio tempo e non la so. Comunque questa qua. Sì. Impararla, Julio, conviene impararla. Non la posso nemmeno intonare, comunque è quello che le dicevo io, la gioia e l'allegria che trasmette il calcio a tutti noi, capisce? Sì, come no, capisco perfettamente, anche se stasera sarà duretta, secondo me. Penso anch'io, comunque ho tanta fede nei ragazzi, lo ripeto, comunque guarda, sarà sempre una festa e sarò contento comunque vada. Va bene, ok, allora l'aspettiamo poi domani per raccogliere la sua felicità e commentare le sue lacrime. Ma tu tatticamente come la inquadri, Pier? Partite immagini, della filosofia, però. Che non vedremo le aberrazioni di ieri, cioè che vedremo due squadre comunque equilibrate che non concederanno grande spazio. L'Argentina fino a questo momento non è stata particolarmente brillante, però ha avuto sempre comunque un certo equilibrio, tenuto dietro, che era, se vuoi, il punto debole, no? Perché comunque c'è una difesa con Sabaleta, Rojo, De Michelis, Fernandez, Garay, insomma non è che proprio dia una grandissima sensazione di forza. È una squadra alla fine con dei fenomeni davanti, uno l'ha perso, uno e mezzo li ha persi, perché insomma Di Maria e Agüero dovevano contribuire al tasso tecnico. Oggi sarebbe servito Tevez, a questo punto penso giocheranno Messi, Higuain e con Lavezzi che potrà dare una mano. Mi aspetto una partita, l'Olanda pure non è più l'Olanda del passato, no? Dello stereotipo, l'Olanda del calcio attuale basta. No, anzi, questa è una delle grandi novità di questo mondiale. Quindi, io oggi mi aspetto una partita europea, europea nel senso una partita di grande equilibrio, poi ci sono chiaramente dei giocatori con un talento talmente grande che la possono cambiare in qualsiasi momento, la possono spostare e aprire delle situazioni tattiche conseguenti, ma mi aspetto una partita europea con due squadre che si chiuderanno, che saranno molto attente, che non vorranno commettere il primo errore, e la vedo molto equilibrata, lo dicevo ieri, mentre quella di ieri insomma Brasile era appeso al miracolo e al fattore campo, questa onestamente è una partita 50-50. Sì, d'accordissimo. Stai lì? Ce la fai? Sì. Benissimo. Tutti convocati. Il mitico Fantino, telecronista argentino, Brasile, dopo aver battuto il Belgio con l'Argentina, Brasile, ci vediamo in finale. Sì, ciao, magari un'altra volta. Pierluigi, ci sei? Sì? Sì, sono qui. Sei lì. Parole di Agnelli? Che dici? Sì, lo so, io qui. Quali? Delle tante parole di Agnelli? Delle tante parole di Agnelli. Quelle della federazione. Le picconate sul Tavecchio e questa corrente che è maggioritaria, lo ricordiamo. Fare fatica a immaginare lo stesso qua. Riconoscimento di autorevolezza al nostro presidente delle nazionali dilettanti Tavecchio. Il calciatore ha un'autorevolezza diversa e una rappresentanza diversa. Non ringrazio nel caso specifico Abete per averci lasciato solo 20 giorni nel mese di luglio per fare delle riflessioni così importanti per il principale sport italiano, però è così è la vita, le dovremo fare. E io auspico che ci sia quanto più consenso possibile in una persona di grande spinta riformista, perché quello di cui ha bisogno il calcio è di un cambio radicale e profondo. Io ho già detto, ho già espresso il mio consenso per quel nulla che può valere. Sì, gli ha già anche provato risposto Macalli dicendo delle cose, un attacco che ho già detto prima. Quale preferisci? Violentissimo. Quando io vado a lavorare, produco e pago le tasse, lui e la sua famiglia fino ad oggi hanno spolpato l'Italia, ti piace questo o ti piace quello su Agnelli e Barbara Berlusconi? Se gli dai un bicchiere forse quei signori fanno una ossa e ce la mettono tutta, oppure ce ne sono delle altre, ce ne sono diverse altre, prima le ho lette tutte, qual è la tua preferita? Beh, quella sullo spolpamento dell'Italia fa abbastanza impressione, nel senso sì. Che comunque insomma diciamo non è il linguaggio politico che sentiamo dire frasi di questa violenza, ma devo dire che sono una risposta al punto di vista espresso con garbo, con eleganza, ma in maniera assolutamente molto virulenta da parte di Agnelli. Io pure così a naso dico che abbiamo bisogno di riforme e non di traghettatori. Io credo che abbiamo bisogno di una nuova generazione, non è soltanto un punto di vista anagrafico, non è soltanto perché casualmente ho 40 anni e quindi faccio il tifo per i quarantenni, perché non sono questi discorsi. Le persone, intelligenti di qualsiasi età, persone rappresentative di qualsiasi età e persone che non hanno lo stesso talento, quindi questo non è un discorso di questo tipo. Il problema che viene posto è un problema di autorevolezza, di rappresentatività e di prestigio, e su questo sicuramente insomma Tavecchio che nasce e che ha vissuto una carriera importante, ma in un ambito sicuramente meno rilevante di quella che può essere la Serie A, chiaramente può dare adito a qualche dubbio. Insomma, io sono dell'idea, a me non piace molto la politica intesa proprio come la sensazione che poi alla fine sì, però guarda, per semplificare, Tavecchio sarebbe l'uomo della continuità rispetto ad Abete, capito. E rispetto a quel filone, se vogliamo qualcosa di diverso allora bisogna pensare a qualcosa di diverso, cosa che ha fatto Agnelli, per proprio estremizzare la sintesi. Poi diventa tante volte, sembra quasi una battaglia ideologica fra vecchio e nuovo a prescindere, sì. Questo non mi piace, no? No, ma è cronaca, secondo me è cronaca, cioè sì, no, no, No, ma certo, come no, è chiaro che se ne parla, è ovvio che dobbiamo parlare. No, a me non piace l'idea, a me non piace l'idea che poi alla fine ci si divida come dei fedain, giovani contro vecchi, tanto per capirci, vecchio contro nuovo, perché, non è questo, bisognerebbe andare nello specifico sulle questioni. Certo però che questo tema, forse anche l'Italia di Renzi, se vogliamo, noi improvvisamente, si diceva fino a qualche anno fa che eravamo un paese per vecchi, adesso abbiamo improvvisamente donne e uomini a pari merito fra i ministri del governo e un presidente del consiglio che ha 39 anni, cioè è abbastanza clamoroso quello che è successo, no? Piaccia o no Renzi, questo ci mancherebbe altro, rimane un dibattito aperto, però voglio dire è una rivoluzione vera e propria. E la sensazione è che questo tipo di clima stia contagiando altri aspetti del paese, cioè che i quarantenni di oggi stiano prendendo, addirittura i trentenni nel caso di Barbara Berlusconi, stiano prendendo il coraggio di alzare la testa, anche se ripeto non dovrebbe essere un discorso. No, quello dell'età è un falso problema. Pier, quello dell'età è un falso problema. Si può essere giovani a 60 anni e voler far cambiare a 60 anni e si può essere conservatori a 40, su questo non ci sono dubbi. Però mi sembra che nella mente di Agnelli ci fosse anche un riferimento di immagine a Tavecchio, cioè quando lui parla di rappresentatività, di carisma, sta dicendo questo, al di là di quelli che saranno i progetti per il futuro della Federcalcio, sta dicendo questa persona rispetto a un calciatore importante, non si rappresenta nella maniera più adeguata, quindi sta facendo una questione che è anche una questione formale, che è anche una questione di immagine. Sì. Cristina, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione. Grazie a lei. No, io volevo tornare su questo fatto che io trovo assolutamente grottesco, di questo clima mediatico di stanotte, di oggi, che la Germania doveva fermarsi perché altrimenti i bambini piangono, i diseredati anche. Sì. No, io lo trovo, ho sentito anche in rassegna stampa, ma ho letto, dei pezzi assolutamente pazzeschi, assolutamente pazzeschi. Io mi chiedo, a parte il fatto che stiamo parlando di campionati del mondo, che stiamo parlando di una semifinale, ma io mi chiedo, se fosse successo l'inverso, cioè il Brasile poteva fermarsi, si doveva fermare, ma oppure no? Guardi, cioè, ma no, Cristina, non è questione di Brasile o Germania, è questione di una logica sportiva parecchio perversa, perversa, che come lei, io e Pierluigi facciamo fatica a capire, anzi non capiamo per niente e anzi aggiungo, non vogliamo nemmeno capire, quindi semplicemente questo è... No, ma poi sentivo che abbiamo fatto il dibattito a Sport Media, e Marco Foroni giustamente diceva, ma se nel tennis un match finisce 6-0, 6-0, non è che quello sconfitto chiama i caschi blu oppure accusa di poca eleganza quello che ha vinto, e noi dobbiamo imparare a pensarla così, secondo me, mi ricordo il caso di Roma-Catania di qualche anno fa, poi ci sono delle cose, ci sono... degli effetti che vanno oltre il numero dei gol che segni, no? C'è un rispetto per l'avversario, c'è un fair play, ma mi pare che i tedeschi questo l'abbiano avuto. Ma assolutamente, ma poi scusami Pier, ma è anche questione di mandare in prospettiva vittoria del mondiale, in prospettiva finale è anche questione magari di mandare messaggi subliminali all'avversario, come quando giochi un playoff all'interno di una serie. Se puoi vincere di 40, cerchi di vincere di 40 per mandare dei messaggi con 40 punti di scarto per mandare dei messaggi all'avversario. Può essere un ulteriore fattore di pressione psicologica su chi incontreranno in finale, può essere un sacco di cose, no? Può essere anche che ci sono i record. Ieri chiaramente è passato quasi sotto silenzio perché il fragore della vittoria è Klose, è arrivato a 16 gol, ma per dirti c'è un giocatore come Müller che è arrivato a 10 gol in 12 partite nella storia del mondiale. Müller è uno che teoricamente può fare altri due mondiali, quel record lì lo può asfaltare, allora perché non deve cercare il gol personale, o perché la Germania non deve, una squadra che si sta divertendo e poi oltretutto ieri è stata proprio invitata a nozze dal Brasile, perché da un certo punto diventava grottesco se i tedeschi non tiravano in porta, perché entravano in porta col pallone che dovevano tirare fuori, e anzi io ti dico la verità che all'inizio del secondo tempo la Germania secondo me si è fermata, nel senso che è entrata in campo nel primo quarto d'ora proprio molto molto schiscia. Il Brasile ha avuto 2-3 palle gol, Neuer ha fatto dei miracoli, e poi in contropiede si sono aperti degli spazi. Sì, ma però anche lì non è che Neuer deve fargli fare gol perché sennò quelli piangono, voglio dire, ha fatto un paio di parate pazzesche e benissimo ha fatto, voglio dire. Sì, il fair play sta, secondo me, nel inserire sull'avversario dal punto di vista del comportamento, cioè se vai lì sotto e gli fai il gesto dell'ombrello oppure hai un comportamento poco sportivo tu cure e umili l'avversario al di là del tuo impegno sportivo, quello è sbagliato, ma perché è un comportamento sbagliato in assoluto. Ma giocare a pallone, cercare di fare quanti più gol possibile è una cosa giusta e secondo me è una roba molto italiana questo dibattito. Sì, è vero, di come ci complichiamo la vita, ma di come diciamo, io non gli faccio troppo male perché la prossima volta magari posso aver bisogno di un piacere, magari può fare male, ma oppure, dai, ma per favore. Così al Maracanã, così sentito dire, così al Maracanã magari avranno un atteggiamento diverso, ma sai che gliene frega, ieri c'erano tutti i partigiani contro, sai che di avere ma cosa gli frega, a parte che se la finale sarà con l'Argentina ti faranno comunque per loro, perché questo è veramente l'incubo che c'era, sì, l'Argentina che va a prendersi la loro coppa, incubo totale per i brasiliani. Pier, grazie, ti abbraccio forte, ciao ragazzi, ciao. Allora, traffico subito. Massimo a Firenze, Fabrizio da Ravenna dopo, ci collegheremo con il tour, ci sono notizie importanti che arrivano da lì. Tutti convocati. Faire du Nord, Paris, Roubaix, Tour de France, Tour de France, la Côte d'Azur et Saint-Tropez. Subito al tour da Piero Augusto Stagi, ciao. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Che succede lì? Succede che non piange solo il Brasile, piange probabilmente anche una parte dell'Inghilterra, piange di sicuro Christoph Froome, che è caduto a 68 km dal traguardo per la seconda volta, era già caduto un'ora fa, è ricaduto violentemente, pesantemente poco fa e praticamente si è ritirato, non muove il braccio destro, una dura botta anche all'anca, sempre destra, e scuotendo il capo ha comunicato ai suoi direttori sportivi, allo staff, ha anche accarezzato qualche compagno di squadra che fedelissimi erano lì al suo fianco, ha detto ragazzi non ce la faccio e questa è grossa, non riuscirò a piegare il braccio. D'altra parte non è una novità, questa è una tappa secondo me scellerata, chi ama il ciclismo, ama il grande corsa tappe, è logico che fa parte del gioco, la pioggia, la neve, la grandine, il caldo, l'afa, la salita, la discesa, per andare proprio a cercarla e mettere in preventivo, nello spartito, una tappa che è troppo per specialisti, perché non la corre, la corrono solo quei corridori che sono veramente abituati, hanno la capacità di destreggiarsi sul pavé, e c'è una ragione. A me sembra semplicemente grottesco mettere una tappa così difficile, lo dico non perché Froome non è un corridore italiano, anzi il rivale era forse il favorito numero uno di questo Tour de France, ma non è giusto battere un personaggio con una tappa semplicemente ridicola, perché allora a questo punto, se vogliamo il ciclismo estremo, parliamo di tutela della salute, vogliamo il ciclismo estremo, benissimo, allora non asfaltiamo più le strade, allora non diamo più neanche la possibilità di cambiare la bicicletta. Tra l'altro Cancellara ha detto queste cose, no? Sarà a rischio di essere come un disastro come per il Brasile ieri sera. Esatto, esattamente, l'ha detto in maniera preventiva, molto modestamente l'ho detto anch'io ieri sera, l'ho anche scritto dicendo perché mandano il tour al massacro e con gli EM, che non bisogna essere dei geni, chi conosce un pochino il ciclismo sa perfettamente che oggi ne mancano ancora di 60 di chilometri da percorrere, quindi succederanno altre cose. Speriamo solo, incrociamo le dita, che Vincenzo, detto egoisticamente, arrivi in albergo, come ha detto lui ieri sera, che l'ho sentito personalmente, mi ha detto spero solo di arrivare intero in albergo, quindi non, con la maglia o senza, ma l'importante è senza botte o questioni come Chris Froome, però non è ciclismo, non è sport, è veramente azzardare, perché allora veramente non è ridicolo quando dicono non facciamo la discesa del Crostis perché è pericoloso, perché secondo questa logica uno fa anche la discesa, chi non è capace, certo, va giù a piedi. Certamente così. Grazie Pier. Io voglio il concetto che a me piacerebbe battere Froome e Alberto Contador su una bella salita, alla fine, cioè in maniera sportiva, non così. Grazie Pierluigi. Pier Augusto, Pierluigi, Pier Augusto, Pier Augusto, Pierluigi. Grazie. Va bene. Pier. Grazie, a domani. Ho ancora un paio di ascoltatori con cui conversare. 800240024, numero verde. Massimo Firenze, buongiorno. Sì, buonasera. Sono in linea? Sì, dica. Senta, io ho una considerazione da fare. Sono stato tanti anni fa in Brasile per ferie, ho girato un po' tutto. E il calcio è amato da tutti. Ma come mai, quando venivano inquadrati gli spalti, non c'era una persona di colore? Erano tutti bianchi. Ma questo non lo so. Come mai? Ma che, come faccio a saperlo io? Cioè, no, io so. No, ma non... non ce l'ho una... No, ce l'ha, ha una spiegazione, eh? Sì, ma presumo che il biglietto è troppo raro e loro non sono entrati. Li mandano a vedere le partite su questi video, sì, nelle piazze, e così tanto si accontenta. No, non credo in spiegazioni perverse, razziali, strane, eccetera. Semplicemente hanno inquadrato quelli che erano allo stadio, molti dei quali in lacrime, donne, bambini, eccetera, molte persone con la faccia dipinta, con i colori brasiliani, ma credo sia tutto lì. Non penso proprio ci siano sotto altre ragioni di altra natura, o almeno questo è quello che penso io e quello che mi auguro, non voglio pensare ci fosse un grande fratello che ha detto no, quelli di colore non li inquadriamo, gli altri sì, quindi non penso che ci sia oggetto argomento del contendere in questo caso, caro Massimo. Fabrizio, buongiorno, Ravenna. Ciao, buongiorno, sono in trasmissione? Sì. Niente, avevo telefonato giù per fare un po' una riflessione sulla partita di ieri, al quale io ho votato Germania tutta la vita, considerando che ho visto anche diverse partite in Bundesliga, quindi era evidente che per me avrebbero vinto loro. Non capisco le scelte di Scolari, che dal momento in cui mancavano due fenomeni, come gli unici fenomeni della squadra, che era poi Thiago Silva e Neymar, abbia lasciato in panchina gente come William, giocatori di classe come Ramirez, per cui evidente che il risultato secondo me fosse stato quello. Sì, guardi, sinceramente non penso, cioè, che... voglio dire, scusami, esempio, dimmi. Far giocare gente come Fred, beh, quello è stato il suo cavallo di battaglia. A quel punto poteva prendere anche Poglio del Livorno, secondo me. Sì, ma il collega brasiliano prima ha detto, ovviamente poi i nomi che circolano sono millanti in questi casi in Italia come altrove, no? Si è fatto anche il nome di Kakà e di altri assenti, magari qualcuno penserà perfino a Robinho e Ronaldinho, figurati un po', però... il fatto è che Scolari è andato con questa squadra dall'inizio alla fine, in questa ostinazione. Io non potrei anche non dargli torto, nel senso che ha fatto l'allenatore, è andato con i suoi uomini, con quelli in cui credeva, li ha difesi fino alla fine. È chiaro che adesso tutto quanto è indifendibile, a cominciare da Fred per finire con chi vuoi tu. Lì è stata una questione di scelte. La verità è che non penso, certamente il Brasile ha messo malissimo in campo, certamente le scelte sono state tatticamente sbagliate. Ad esempio, si poteva pensare ad avere in queste condizioni contro questa Germania un centrocampo più numeroso, più robusto, costruito in maniera diversa, però non credo che anche quelli della panchina ieri avrebbero cambiato qualcosa. Guarda, paradossalmente penso che nemmeno la presenza di Neymar e di Thiago Silva avrebbe cambiato molto, probabilmente non ci sarebbe stato un risultato di questo tipo. Non abbiamo nessuna controprova, ma di fatto sono gli unici due giocatori del Brasile che ti possono davvero cambiare la vita. Ieri sera non c'erano, il Brasile è semplicemente ha avuto una paura dannata come ha preso il gol, ed è un atteggiamento non brasiliano, perché i brasiliani normalmente quando subiscono il gol prendono la palla, vanno a centrocampo, moglie ne facciamo un altro. Invece lì si è visto subito, sono andati nel panico più totale, il mondo gli è crollato addosso ed è finito in quella maniera lì, surreale. Valerio, Roma. Salve, buongiorno. Buongiorno. Io sono strafelice perché tifavo Germania, sì? Perché è un grande paese ed è un paese serio soprattutto. Quindi per ragioni parapolitiche, parasociali? Anche, no, è un paese che amo da tanti punti di vista, la letteratura tedesca, è proprio un paese che amo da questo punto di vista. Ho avuto un solo problema a 12 anni, vabbè, l'abbiamo avuto pure noi, siamo stati maestri noi, e abbiamo insegnato noi, quindi ho avuto quella parentesi a 12 anni. Comunque ritengo abbia fatto benissimo a giocare fino alla fine, che il calcio che gioca fino al 90esimo. Uh-huh. Ho visto visto come si incavolava a noi, era il portiere quando ha preso il gol con i suoi compagni, era il 90esimo, si è incavolato perché la partita dura 90 minuti e si gioca fino alla fine, anche perché se il Brasile con un po' di calasso a destra alla Germania faceva due gol all'inizio ripresa, chi lo diceva la partita non poteva cambiare? Se ne hanno fatto 5 la Germania, potevamo fare 5 due il Brasile. Sì, molto, molto in teoria, molto in teoria. Certo, in teoria è chiaro, però voglio dire, il Brasile era abbattuto psicologicamente, è entrato abbattuto psicologicamente, perché ha sbagliato tutto, non c'era con la testa. Io infatti parlavo con mia moglie, dico, se la Germania fa un gol adesso, era intorno al 20esimo, l'ha fatto subito dopo, li ammazza psicologicamente. Infatti, E sua moglie cosa ha detto? Sua moglie cosa ha risposto? Ha detto, secondo me pure, cioè questi non ci stanno in campo, sono perdite. L'altra sera abbiamo visto un bel Brasile, stasera dice tutti, sembra proprio che non ci sia in campo. E stasera come va? Valerio, stasera come va? Ma stasera io tipo Olanda, per un fatto storico, nel senso che poveracci hanno avuto, gli è capitato di tutto, sempre ai mondiali, sai, sempre sfortunati, una volta la Germania, una volta l'Argentina, insomma, tipo Olanda, se lo, dal punto di vista storico se lo merita, insomma, ecco. Vabbè, allora, dal punto di vista storico. Io. Poi dopo domenica sarà un po' il problema, se vince Germania. Domenica problema, Germania e Olanda deve fare le sue riflessioni calcistico, politico, filosofico, culturali. Perché insomma l'Olanda avrebbe un debito, insomma, ma da un credito da riscattare, insomma. Tanto vediamo chi ci va. Io tifo Argentina, ma con grande amicizia, se vuole ci risentiamo domani. Allora, migliore in campo? Eccolo. Sentiamo Ginevra. Buongiorno, Carlo. Buongiorno. Sono un po' lenta perché sono andata a un mese di gravidanza, quindi sì. Parlerò con un po' di affanno. Volevo dire che per me la Germania è stata, ha dimostrato anche ieri, di essere una squadra bella ed elegante nel gioco e non solo nel carattere. Nel senso, tutte e due le cose, perché sono d'accordo con quello che diceva Lorenzo, il signore che ha partecipato prima, nel senso che io ho letto un po' la Gazzetta con degli articoli anche molto belli di Condò, eccetera, ma ci sono un po' di enfasi giornalistiche, secondo me, su questa cosa della spietatezza, il cinismo, si parla dell'assassino Klose. Allora, io sinceramente li seguo da tanti anni, tedeschi, e devo dire che in genere li ho trovati anche molto più rocciosi e anche molto più fisici e aggressivi, li ho trovati straordinari. E quindi Ginevra, magliette di tutti i convocati. A proposito, inviateci file mp3 sito radio24.it con un vostro commento sonoro della durata di un minuto, tema chi vince il mondiale. Mica male, eh? Sa va a sandir. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scatritti in regia, Claudia Schiattone in redazione, sentiamo domani alle 2. Tutti convocati.